tempesta ancora in corso, esplode lo scontro politico sul coronavirus. Calabria e Marche vorrebbero chiudere le scuole, Conte non ci sta, minaccia di avocare al governo questi poteri, la Lega replica muso duro e gli dà del quasi fascista. Dunque, con 7 morti, la caduta delle borse, uno scenario di recessione che si fa più concreto, gli stati europei che pensano a limitare i viaggi degli italiani, non si riesce ad avere un po' di calma e razionalità istituzionale da parte di tutti. In queste ore pare quasi impossibile parlare d'altro. Eppure le notizie ci sono. L'auto che si è lanciata sulla folla del carnevale in Asia, in Germania, con 30 feriti. Il primo verdetto su Harvey Weinstein, condannato per stupro. La stretta in arrivo sulla maturità, visto che pare che ci siano un po' troppi 100 e lode. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci oggi in formato tradizionale, care ascoltatrici e cari ascoltatori, 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio, fatemi sentire la vostra voce anche oggi. In una giornata, ancora una volta, piuttosto difficile, e fatemelo dire, difficile anche fare informazione con calma in giornate come queste. Siamo anche in diretta su Facebook, come sempre, sulla pagina Facebook di 24 Mattino. E ci trovate su Twitter, su Instagram. E ci siamo con Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e in redazione. Si diceva difficile parlare di altro e molto parleremo stamattina anche e ovviamente di Covid-19, del coronavirus, degli effetti che sta avendo su un pezzo del nord. Ci sono i morti, come sapete, i contagiati sono circa 230, i morti sono 7. Ricordate sempre che 6 di queste erano persone sopra i 75 anni, una di 68, però tutti con altre patologie in corso, il che non vuol dire gioire perché muoiono queste persone, perché muoiono gli anziani, perché qualcuno l'ha presa in questo modo. No, ovviamente non è questo. È per dire a tutti gli altri un po' più di calma, un po' più di tranquillità. Con i focolai che sono sostanzialmente 2, e 2 restano, Cosa sappiamo del virus? Gli esperti con i quali abbiamo parlato nei giorni scorsi e che sentite un po' tutti i giorni in televisione ci dicono che nell'80% circa dei casi, numero variabile tra l'80 e il 90, non ci sono sintomi o ci sono sintomi molto lievi. Nel 15% dei casi circa degenera in una normale polmonite. Pur fastidiosa, pesante, per carità, però è una polmonite. Nel 5% polmonite grave. Tasso di mortalità finora del 2-3%, ma in Cina più basso all'estero. Questo sempre per mantenere la calma. Perché abbiamo un'esplosione di casi in Italia? Le ipotesi sono tante, 2 sono quelle principali. La prima, sulla quale concordano praticamente tutti gli esperti, quelli che abbiamo sentito in questi giorni, è che noi stiamo cercando con maggiore intensità dopo il caso accertato di Codogno e gli altri cercano con meno intensità. Il fatto sarebbe testimoniato anche dalla scarsità di casi riscontrati in altri paesi. Pensate, ragazzi, pensate alla Spagna. In Spagna hanno trovato un solo caso ed è un medico italiano atterrato ieri a Tenerife. Ma vi sembra possibile che in un mondo globalizzato in Spagna ci sia un solo caso di coronavirus? Dai. Forse non li stanno cercando con la stessa intensità con la quale li stiamo cercando noi. La seconda ipotesi è che vi sia un super diffusore, ossia una persona in grado di contagiare più persone di quanto non avvenga normalmente. Così abbiamo chiarito alcune cose. Poi, per carità, io non sono un virologo, non sono un infettivologo e non sono un epidemiologo, però quello che raccogliamo dalle interviste, che apprendiamo e che leggiamo, insomma, ci consente al momento di dire questo, di massima. Il che non vuol dire stiamo tutti tranquilli, per carità, è tutto a posto. Vuol dire semplicemente calma, razionalità, ok? In tutto ciò non riusciamo a liberarci di questo casino politico inenarrabile, nel quale si arriva anche in queste ore ad uno scontro istituzionale di, mi pare, di dimensioni insomma inusitate per la situazione nella quale ci troviamo. Una situazione, come si diceva, 230 contagiati, 7 morti, quello che abbiamo raccontato, ma soprattutto due regioni che insieme rappresentano più o meno il 30% del prodotto interno lordo italiano, sia Lombardia e Veneto, che sono sostanzialmente ferme, o quasi, cioè adesso ferme proprio no, però ci siamo vicini, è uno scenario recessivo visti anche i dati di borsa di ieri, che pare avvicinarsi. Quindi un po' di calma, un po' di calma. Anche Walter Ricciardi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che adesso diventerà il nostro ufficiale di collegamento con l'OMS, l'ha annunciato ieri il ministro Roberto Speranza, dopo che tra l'altro, che curiosamente, lo stesso Ricciardi era stato uno di quelli che più aveva picchiato duro contro l'idea di chiudere i voli diretti, e quindi complimenti al governo che ha riconosciuto evidentemente di aver fatto un errore, ha chiamato un suo super critico, per così dire, a gestire questa parte. Ricciardi che dice: beh, ragazzi, stiamo un po' esagerando tutti quanti, compreso Zaia che vuole fare 3500 test. Sentiamo. Ma questa indicazione deve essere generale, non ci può essere che le Marche vogliono chiudere le scuole, la Basilicata vuole vietare il flusso, quell'altro vuole fare i test a tutti, cioè sostanzialmente vuole fare i test a tutti quanti i cittadini del paese. Chi è che vuole fare tutti i test? Il governatore Zaia ha detto che vuole fare il 3500 test al paese di Vaud, quando tamponi, la Francia è tutto. No, I tamponi che poi non ci sono per i medici. Ma perché è impossibile? Perché che si questo stanno test ammalando. L'ha spiegato questo test. No, ragazzi, non è che siamo guardie del corpo del governo, come scrive un ascoltatore. È semplicemente che nel momento nel quale hai un focolaio nell'Odigiano e la Calabria dice che vuole chiudere le scuole, beh, insomma, non lo so. Fate voi, Fate voi. Oh, mi scaldo un po' su queste cose. Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano per due mandati, già europarlamentare, buongiorno, grazie per aver accettato buongiorno, il nostro invito. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Eccoci qua. Senta, lei che ha gestito una grande città, come le pare, come viene gestita questa, non voglio chiamarla emergenza, perché non è un'emergenza, sono misure di prevenzione eccezionali. Come vengono gestite queste misure di prevenzione eccezionali, Albertini? Ma guardi, proprio perché lei ricordato il doppio mandato amministrativo, il primo sentimento che provo è quello della solidarietà nei riguardi di chi ha queste responsabilità, di qualsiasi colore politico sia, è un ruolo pesante e davanti a questi, lei giustamente non l'ha chiamata emergenza, ma certo è una fase molto critica del rapporto con le proprie responsabilità di governo, di un territorio, di una città, di una regione o di una nazione. Quindi il primo argomento è questo, cioè è difficile farlo, vediamo di aiutare tutti per affrontare questa difficoltà. Sulle polemiche possono essere inevitabili, c'è sempre un punto di vista diverso, queste sono situazioni poi che non fanno riferimento a una scienza esatta, come sappiamo, non è la fisica o la matematica ma la medicina, quindi anche gli stessi clinici, gli stessi scienziati si interrogano e non danno tutte le stesse risposte. Detto questo, mi sembra che si stia affrontando la questione con la dovuta e necessaria intensità, e devo dire anche la comunità, per quello che mi riguarda, io abito a Milano, frequento la città, conosco i miei concittadini e sono io stesso milanese, mi sembra che la stiano affrontando con razionalità e con un certo equilibrio. Naturalmente anche qui ci sono le eccezioni e ci sono le posizioni faziose da un lato oppure aggressive e impropriamente dall'altro, ma mi sembra che si stia muovendo l'intero paese, e qui farei un'osservazione sull'intero, l'intero paese con una certa adeguata, diciamo, senso di responsabilità. Dico intero perché condivido quello che lei ha detto nella sua introduzione. È vero che ogni regione, ogni territorio, parliamo di epidemia e non di pandemia, lo sappiamo cosa vuol dire, no? L'epidemia dal greco epi vuol dire sopra, quindi in quel territorio, in quel luogo c'è una condizione che è solo di quel territorio, di quel luogo, che va affrontata. La pandemia, sempre dal greco, vuol dire tutto, quindi si allarga a tutto il territorio e quindi a questo punto c'è una situazione davvero quasi incontrollabile. Quindi è vero che ogni territorio deve adottare, in ragione della gravità dei fenomeni che si verificano, delle sue particolari condizioni. Quindi se a Lodi o nei dintorni c'è un focolaio, lì si devono chiudere le scuole, si devono bloccare gli accessi, cosa che si sta facendo. Mi sembra improprio, lei l'ha richiamato e condivido, che in un altro luogo, a centinaia di, se non mille o di più, chilometri di distanza, si voglia fare lo stesso. Quindi una regola nazionale per le indicazioni e un'applicazione territoriale per affrontare le singole poi mi permetto anche di dire che anche su queste chiusure all'interno di una singola regione magari si può anche iniziare a ragionare sul fare qualche osservazione. Per esempio, vi faccio un esempio pratico. Allora, Lodi e Sondrio, no? Lodi dista da Sondrio, che è in Lombardia, tanto quanto dista da Genova, tanto per dare una misura, più o meno, tendenzialmente. Ci si arriva nello stesso tempo. Quindi anche là forse si poteva, non so come dire, moderare il tutto e cercare di contenerlo in un ambito sottoregionale, subregionale forse, e non regionale, no? Chiudere l'intera Lombardia, l'intero Veneto, l'intero Piemonte per, insomma, questo numero di casi. Forse nel caso della Lombardia era corretto, chissà, perché il numero di casi è più alto, non lo so, però insomma ho l'impressione che Albertini territoriale, cioè, ha ragione. Io scusi se l'ho interrotto. No, prego. Figuriamoci. La risposta, diciamo, cioè, condivido, cioè, in effetti in alcuni casi i confini, diciamo, territoriali della responsabilità politica e quelli funzionali, diciamo, dell'espansione o del pericolo di contagio sono diversi, quindi bisognerebbe potersi modulare con questo criterio che è più aderente alla realtà. Una cosa però mi pare poter dire, e credo che tutte le persone di buon senso possano condividerla, cioè non esiste che ogni regione, indipendentemente da uno scenario territoriale di gravità o meno, e soprattutto indipendentemente da una normativa nazionale che dà i criteri applicativi su tutto il territorio nazionale per affrontare questo tema, faccia, diciamo, delle scelte del tutto autonome e del tutto, diciamo, singole, cioè addirittura sulla personalità del singolo governatore o sulla composizione del singolo consiglio regionale. Questo mi parrebbe poco serio. Certo. Senta, Albertini, l'ha fatta la spesa? No, perché qua a Milano pare che... No, siamo nella zona dove abito io, sì, ci sono diversi supermercati, i negozi, la situazione è abbastanza tranquilla. Sono stato peraltro prima del weekend drammatico, e lì non ha fatto incetta Albertini, cioè è andato sapendo già sono andato a fare qualche spesuccia, tra parentesi anche in farmacia, ma non ho comprato mascherine. Ha fatto incetta di pasta, escluse le penne lisce, naturalmente. No, ma non ho neanche visto, devo dire, nei due supermercati vicini a casa mia non ho visto questi spazi vuoti nell'espositore. No, non li ha visti. È abbastanza contenuta qui, almeno. Poi non so, l'altro luogo della città sarà diverso. Chissà. Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per La Repubblica. Tonia, ciao, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Benvenuta. Ti vorrei coinvolgere anche su quello che è successo ieri in Assia, ma prima ancora, perché non mi dici come la stanno leggendo la vicenda italiana di Covid-19 da quelle parti? Ma devo dire che ieri i servizi erano naturalmente molto sull'Italia, ma molto misurati, dicevano che in realtà gli italiani stanno reagendo in maniera abbastanza tranquilla, quindi non c'è questa narrazione che c'è da noi di un panico diffuso, insomma, anche tra... No, e devo dire che molto responsabilmente il ministro della sanità Jens Spahn, che oggi sarà a Roma peraltro per vedere il nostro ministro della sanità, ha detto che sì, cioè, naturalmente c'è il pericolo che torni anche in Germania il coronavirus, perché ricordiamo che la Germania prima dell'Italia era il paese con il maggior numero di infetti, erano 16, nel frattempo sono tutti tornati a casa tranquilli, sono tutti guariti. Quindi insomma c'era ieri ha fatto la conferenza stampa, ha detto certo che c'è il pericolo che prima o poi dobbiamo anche qui magari isolare qualche centro, qualche città, eccetera, però per ora restiamo pronti, ma insomma si cerca di mantenere. E devo dire che anche i 16 contagiati c'è stato pochissimo racconto sui giornali, secondo me un po' troppo poco, nel senso che appunto si tratta comunque di un'epidemia, abbiamo visto anche in Italia che si può improvvisamente esplodere. Qui la spiegazione che danno è che in Germania i controlli sono molti meno che in Italia, quindi danno anche una spiegazione molto razionale, dicono prima qua di fare il tampone preferiscono mandare la gente a casa e dire è un raffreddore, insomma, sicuri, eccetera. Quindi cioè lo trattano come quello che stiamo dicendo in queste ore, no? Che molti paesi li stanno trattando come dei casi influenzali o al limite come delle polmonite, cioè li rimandano a casa, gli dicono vabbè, te ne stai tranquillo nel tuo letto finché questa cosa non è passata, sapendo appunto che nell'80% dei casi, come abbiamo raccontato, come ci dicono i virologi, in alcuni casi addirittura nel 90% dei casi è asintomatica o con pochissimi sintomi, con sintomi da raffreddore, da tosse, queste cose qua. E quindi mi confermi, Tonia, che in Germania di test ne stanno facendo tutto sommato pochi? Sì, ne stanno facendo pochi, esatto. C'è stato questo momento di esplosione quando una donna cinese era venuta in Baviera a fare un corso di sostanzialmente in un'azienda tedesca che, come tantissime aziende, ha una sede anche in Cina, e in particolare questa aveva una sede a Wuhan. Ebbene, questa cinese è venuta in Germania, ha fatto un corso di aggiornamento e ha infettato appunto questi altri colleghi. Lei è stata immediatamente appunto curata, poi anche i colleghi sono stati isolati, è stato rintracciato tutte le persone che avevano frequentato in quei 3-4 giorni cruciali in cui c'era stato il seminario. E quindi sono stati curati poi questi 16 all'ospedale di Monaco, però dopo i primi giorni appunto sul caso è calato abbastanza il silenzio, e io sui giornali ho trovato quasi nulla. Secondo me, insomma, non do opinioni su questo, non è giusto o sbagliato. La Germania ha fatto un'altra scelta. Però può darsi che anche in Germania ci siano centinaia di casi, esatto, e nessuno ne sa qualcosa. Tamponi, non li fanno come non sono scrupolosi come in questo momento siamo noi. Ecco, questa secondo me è una delle ragioni fondamentali della differenza tra Italia e Germania, per esempio. Certo. Adesso vi faccio sentire ancora un paio di cose e poi, dato che ho le due persone giuste, perché Tonia Mastrobuoni si occupa di economia da una vita, Gabriele Albertini è un imprenditore, nasce come imprenditore, come manager, un punto anche economico, ieri abbiamo visto questa caduta della borsa, ma soprattutto la grande preoccupazione, insomma, vi ho detto, Lombardia e Veneto insieme fanno il 30% del PIL italiano, insieme al Piemonte fanno il 40% del prodotto lordo italiano, sono più o meno 37-38 più o meno, insomma, quindi parliamo di uno scenario preoccupante. La Lombardia da sola ha il 22%, e allora già avevamo una previsione di crescita che era intorno allo 0, per il 2020. Lo scenario che si apre, se le cose vanno avanti così, non è esattamente roseo. qualche voce. Ancora la questione della polemica sulle regioni. Vogliamo sentire Ceriscioli, Carmelo Lauricella, che prima dice chiudiamo le scuole, dopodiché si sente al telefono col Presidente del Consiglio e dice no, aspetta, aspetta, ci ripenso. Era il signor Conte, il Primo Ministro, che ha chiamato perché sì. Ha chiesto di... L'ordinanza va coordinata con il Ministro della Salute, dicendo siccome hanno intenzione domattina di emanare degli indirizzi di carattere nazionale a cui chiedono le regioni di attenersi, ci hanno chiesto di sospendere l'applicazione, anche la firma dell'ordinanza, al confronto che ci sarà domattina. Quindi è chiaro che non possiamo a questo punto immaginare la chiusura delle scuole da domani, perché dobbiamo attendere l'incontro di domattina, il coordinamento nazionale, e che significa che eventualmente questa ordinanza la prenderemo domani dopo il coordinamento. Da dire del resto che i presidenti del nord, i presidenti di Lombardia, di Veneto, queste cose le hanno concordate con il governo, non è che hanno fatto un'ordinanza loro così di botto, si sono sentiti col ministro Speranza, hanno concordato questa cosa e poi hanno deciso di emanare l'ordinanza con la quale stabilivano la chiusura delle scuole e tutta una serie di altre cose, tra cui a Milano per esempio si chiudono le attività intorno alle 18. Il Presidente del Consiglio Conte parla di un nuovo decreto per le regioni colpite in arrivo. Allora, abbiamo concordato un decreto mio, del Presidente del Consiglio dei Ministri, per recepire misure che erano state anche concordate a livello regionale nelle regioni interessate. Le abbiamo quindi recepite in questo decreto che abbiamo terminato di definire nei dettagli, in modo da distinguere appunto e rendere efficaci tutte le misure per quanto riguarda le regioni direttamente interessate. Riguardano anche le sospensioni delle attività, stiamo parlando delle zone più direttamente coinvolte dal contagio, e sospensioni di tutte le attività, salvo i servizi pubblici essenziali e anche le attività scolastiche. In ritardo, not my fault, il traffico. Mattino. Il fronte economico, dunque, Gabriele Albertini, che ci dice? Ma guardi, è indubbio che una situazione precaria come quella che viviamo, almeno psicologicamente, poi faremo una riflessione sulla gravità razionale o irrazionale che consideriamo, induce tutti gli operatori e anche la normalità del quotidiano a situazioni di prudenza o di rinuncia. Il fatto stesso che siano state interrotte delle attività relazionali di vario genere, anche culturali, sociali, conferenze o cose di questo genere, non si fanno più incontri organizzati, assemblee, tutto questo in un mondo globale dove si lavora insieme e con gli altri, dove c'è il mercato, dove c'è una diffusione di informazioni ma anche di cose, di realtà, insomma complica, e che non a caso gli indici della borsa e anche a breve, se questa situazione persiste, anche quelli della produttività avranno il loro calo. Ora, il richiamo alla razionalità deve confrontarsi con questi dati. Prima sì. Facevo una riflessione: se in una regione lontana, perché il governatore vuole esibire la sua severità e accreditarsi per essere l'uomo forte che affronta il problema della salute dei suoi cittadini, oppure è in polemica col governo, insomma, per le tante ragioni per cui si cerca di raschiare il barile del consenso, prende dei provvedimenti di questa natura che deprimono l'attività economica del territorio, e beh, avrà forse un momentaneo consenso, ma crea un danno alla sua comunità. Il richiamo alla razionalità anche in questa vicenda, guardi un po' i tedeschi o i francesi come stanno muovendosi, non è irrilevante, è fondamentale. Se questa epidemia, non pandemia, ha riferimento a una malattia che i dati che conosco, quelli che conosce lei, quelli che vengono diffusi, è il 2%, lo 0,9% in Cina, sono più bravi di noi di mortalità. E io non so quali sono i dati dell'influenza normale, diciamo, quella non coronavirus, però forse qualche persona che ha già una compromissione della sua, ha delle patologie in corso, può darsi che se prende un'influenza pesante possa finire purtroppo nella condizione critica. Sì, succede, è quel che succede. Sì, e allora io dico, di fronte a questa realtà, credo che vada fatto uno sforzo di razionalità e di equilibrio in tutti. E soprattutto nelle istituzioni, nelle mi pare. Di governo, nelle istituzioni, quelle nazionali e quelle locali. Tonio Mastroboni, a chiudere, abbiamo veramente 30 secondi. Abbiamo lasciato in sospeso quello che è successo ieri nel carnevale in Assia, in Germania. Quest'auto che si lancia contro appunto la sfilata del carnevale con i bambini, 30 feriti, di cui alcuni gravi. Insomma, pare però che non sia terrorismo, mi sembra di aver capito. Tonia. No, fino a ieri sera, diciamo, si sa che l'uomo che si è buggettato a tutta velocità sul corteo di carnevale e pare che mirasse proprio ai bambini, non era in grado di essere interrogato perché sembra che fosse ubriaco e anche forse drogato. Queste sono notizie non confermate ma scritte da vari media abbastanza affidabili come Spiegel e quindi diciamo, bisogna aspettare che cosa è successo. Sì. E poi tra l'altro è stato anche arrestato un secondo uomo che si stava filmando, sembra, questa corsa mortale di questo tizio, e quindi che è un 29enne tedesco. Che stava facendo le riprese, no? Mi sembra di aver capito, devono capire se in qualche modo è collegato. Allora grazie Tonia Mastroboni, grazie corrispondente della Repubblica dalla Germania, grazie Gabriele Bertini, ex sindaco di Milano, già europarlamentare, sì e lo sappiamo, lo dico all'ascoltatore, Luca Ceriscioli è presidente delle Marche, non della Calabria, ma la Calabria e le Marche sono quelle che hanno fatto questa richiesta. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa.